Grazie di essere giunti davvero così numerosi. Mi dispiace della assenza momentanea dell'autore di questo bel libro che mi accingo a presentare, che è Lorenzo Gardumi, che collabora attivamente con la Fondazione Museo Storico del Trentino e ha presentato qui un volume edito proprio dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, appena uscito, un volume che credo arricchisca di una luce davvero molto importante, molto interessante. Una delle pagine purtroppo più drammatiche e anche più problematiche dal punto di vista non solo storico nel senso stretto del termine, cioè rispetto agli eventi che sono accaduti, ma anche dal punto di vista delle implicazioni di tipo metodologico della ricerca. Si direbbe una problematica di tipo storiografica, cioè qualcosa che chiama in causa il modo di porsi di fronte a questi eventi, che sono le stragi naziste commesse negli ultimi giorni della presenza di truppe del Terzo Reich nel territorio italiano. In specifico qui si occupa naturalmente del Trentino, anche se talvolta va anche a cercare degli elementi di paragone, poi dei punti di contatto con tragedie, avvenimenti ed eventi luttuosi della stessa entità accaduti in altre parti del territorio nazionale, e che necessitavano, direi, di una, diciamo, di una sistemazione dal punto di vista della pubblicistica storica scientifica, perché indubbiamente è un lavoro di notevole spessore scientifico, posso dire tranquillamente. C'è una ottima prefazione di uno dei maggiori storici italiani contemporaneisti del momento, che insegna all'Università di Trento, che è Gustavo Corni, che è stato ospitato spessissimo Bolzano ed è uno oggi, direi, dei massimi esperti non solo italiani per ciò che riguarda le logiche delle stragi e dei massacri commessi dal nazifascismo europeo, e che peraltro riconosce al testo una cribbia filologica, dice Corni nella prefazione, decisamente confermata poi dalla lettura di questo bel libro. Devo dire che è un libro che, nonostante la mole, la densità degli avvenimenti narrati, e anche non si esime anche di affrontare alcuni punti di tipo problematico, come dicevo poco fa, non privi di una certa complessità anche dal punto di vista teorico, non annoia mai, ma devo dire è scritto anche con una modalità molto, molto felice, che rende anche i lettori, diciamo, non strettamente che si occupino di questioni storiografiche, appunto di questioni di metodologia della storia contemporanea, assolutamente, credo, interessati e portati, guidati veramente attraverso lo snodo degli avvenimenti, con una mano molto, molto attenta, molto equilibrata, direi quasi mai schiacciata dalla volontà di comunque fare un lavoro di letteratura scientifica robusto, e che riesce a coniugare, da una cosa non così comune, appunto buona divulgazione, una buona capacità di divulgazione attraverso una scrittura piuttosto tranquilla, molto lineare, molto limpida, e nello stesso tempo appunto di dare un contributo, direi decisivo, perché in qualche modo non ci sono enormi novità dal punto di vista delle fonti, ma un quadro di sistemazione rispetto agli eventi, che quello sì risulta alla fine, credo, anche decisivo per quanto riguarda gli avvenimenti qui narrati. Gli avvenimenti, presto detto, sono quelli delle stragi di Ziano di Fiemme, soprattutto sono tre su cui ci si sofferma, di Stramentizzo e di Molina di Fiemme, nelle prime giornate del maggio, quindi dal 2 al 3-4 maggio 1945, quando ormai è stata dichiarata di fatto la resa dell'esercito germanico in Italia, ma nello stesso tempo, e questa è una cosa molto importante che opportunamente ricorda l'autore, di cui non vi è però piena consapevolezza da parte degli attori civili e degli stessi partigiani che operarono poi all'interno di questa fase del conflitto. Quindi, anche se di fatto la firma avvenne il 30 di aprile, ancora fino alle giornate sicuramente del 3 maggio, quasi tutti i protagonisti di queste terribili vicende non erano a conoscenza, a eccezione degli alti comandi germanici e degli stessi ufficiali. Credo che questo sia l'autore. Scusate il ritardo. Traffico di Bolzano, non lo conosco. Credo che tutti i presenti testimoni che ho parlato adesso benissimo del testo, quindi va bene, allora sono fortunato. Quello che mi sembra molto, molto utile qui segnalare è il fatto che il libro, oltre che di estrema leggibilità, nonostante la densità, come dicevo poco fa, degli eventi narrati e poi anche la complessità degli snodi tematici affrontati, perché le questioni qua di carattere anche storiografico a me interessano in modo particolare, proprio anche per motivi così professionali, insomma io non sono uno storico contemporaneista, mi occupo maggiormente di storia delle idee e il tema qui della memoria è un tema che mi è estremamente caro, devo dire è una delle parti che ho apprezzato maggiormente del testo, perché pur partendo dall'affrontare una questione apparentemente diciamo di storia locale, tra virgolette, l'impianto localistico non ha mai la prevalenza sulla capacità di dargli un respiro invece di carattere più generale e più ampio, anche grazie alla notevole capacità di fare collegamenti e relazioni con analoghi episodi avvenuti in altre parti dell'esperienza stragista del Terzo Reich in Italia, e non solo, c'è anche un riferimento molto interessante al caso croato attraverso proprio la testimonianza di uno dei protagonisti degli eventi luttuosi di Stramentizio e di Molina, e che consente di dare veramente, diciamo così, una lettura molto più ampia, molto più allargata di quello che è avvenuto. Credo che chiunque si sia occupato direttamente o indirettamente di storia della resistenza e di storia dell'antifascismo, ma anche di appunto chi si comunque ha vissuto o ha sentito i principali avvenimenti legati al passaggio terribile delle truppe naziste nel territorio trentino e altoatesino, non potesse non ricordare soprattutto l'avvenimento di Stramentizio, che per il numero delle vittime e anche la modalità attraverso cui furono trucidate, l'incredibile pervicacia di perseguire il massacro così evidentemente voluta dai comandi tedeschi, ecco, ha lasciato una traccia nelle memorie, credo, collettive. Però, e qui è la cosa forse più interessante, l'autore affronta il tema delle diverse memorie rispetto all'avvenimento, quindi si era fissata, non tacitamente, ma certamente con una modalità abbastanza sempre presente, un po' sotto traccia, una duplice versione, una duplice tradizione, una un po' più istituzionale e anche un po' più consegnata, come mostra molto efficacemente l'autore, anche attraverso un uso di quella anche buona retorica del dopoguerra, che però fissò un'immagine tutta un po' adamantina, tutta un po' dorata dell'esperienza resistenziale, senza nessuna ombra o comunque con pochissimi momenti, diciamo, un po' opachi, e poi successivamente, diciamo così, trasfigurata un po' in quello che è stato chiamato un po' il mito resistenziale. Dall'altra parte invece una versione spesso più legata alle fonti orali, sussurrata, di una responsabilità diretta dei partigiani negli eventi luttuosi che avrebbero provocato la rappresaglia nel caso di Stramentizio, poi dello strascico di Molina di Fiemme. E l'operazione che è stata fatta dall'autore del testo, da Lorenzo Gardumi, che a me è piaciuta molto, è stata la capacità di mettere a confronto le diverse fonti, devo dire un notevolissimo apparato documentario che raramente si trova nella pubblicistica sicuramente di stampo regionale, ma anche recentemente direi di quella un po' di carattere nazionale, insomma, per quanto riguarda gli studi sulla resistenza, anche soprattutto su un terreno che non è molto spesso frequentato dagli storici, diciamo, non di destra, tra virgolette, mi si passi il termine, cioè la storia militare, che invece qui è stata trattata molto efficacemente, è stato abbondantemente utilizzato quel materiale dell'archivio di Freiburg, ho visto, e quindi fonti che sono andate anche a verificare le modalità stesse organizzative proprio del sistema militare nazista, sia Wehrmacht, ma soprattutto del sistema SS per quanto riguarda la presenza nel territorio trentino. E quindi ciò ha consentito, attraverso un'operazione di comparazione molto controllata, molto efficace, di arrivare a dare dei nomi, dei cognomi e anche dei volti, delle identità a gran parte dei protagonisti degli eventi. Ci sono alcuni punti che io mi sono segnato, poi non voglio annoiare troppo eccessivamente, anzi credo che sia giusto poi che l'autore direttamente poi porti la sua lettura, che io però mi sembrano di particolare interesse. la singolare presenza di Herbert Kapler, che è una figura credo nota tragicamente universalmente per quanto riguarda lo stragismo nazista in Italia, il principale responsabile delle fosse ardeatine a Roma, protagonista di una fuga rocambolesca in una valigia, mi ricordo ancora bene, da un ospedale italiano e portato in salvo poi dalla giustizia italiana, tra l'altro uno dei rarissimi casi di criminali nazisti individuati, processati e anche condannati, ma felicemente fuggiti poi dalle maglie larghissime della giustizia italiana alla metà degli anni 70, che ritroviamo qui come addirittura osservatore militare e protagonista di una, diciamo così, o meglio coprotagonista di una commissione addirittura che avrebbe immediatamente a ridosso delle stragi compiuto una rilevazione apparentemente neutrale su quello che era accaduto. La guerra ormai era stata dichiarata conclusa e quindi una commissione mista con la presenza anche di un esponente del CLN, Kapler dà la sua versione. E qui questo già è molto interessante perché sulla base dei diversi riscontri operati dall'autore appare in maniera molto limpida che Kapler mente in maniera molto lucida anche peraltro, e in maniera anche molto raffinata, direi non per nulla volgare, una capacità di mentire che è un po' una peculiarità di molti atteggiamenti che emergono qui all'interno della narrazione del testo storico. Di gran parte delle fonti di parte nazista addirittura immediatamente a ridosso degli eventi o già dentro agli eventi, la capacità di giocare con non solo con il linguaggio tra virgolette diciamo della violenza, quindi quello che più era a portata di mano di questi battaglioni composti spesso da soldati molto, molto ben strutturati dal punto di vista militare. Ci sono settori di reparti di paracadutisti, di volontari SS, gli stessi principali responsabili dal punto di vista degli ufficiali, emerge molto chiaramente, Schimpelholzer e Steiner sono due figure molto ben dettagliate, poi nel loro profilo ideologizzato di ufficiali nazisti SS che prendono parte già nel 38 a esperienze di pogrom e di rastrellamenti già nei primissimi anni 40 nelle zone di operazione in cui si trovano a essere presenti, quindi non figure marginali, sono figure ben integrate nel sistema SS, ma ecco c'è questa lucidità spietata che, qui senza una coloritura da parte mia su questo momento moralistica, vorrei essere puramente descrittivo in questo modo, in questo momento, rappresenta un tratto caratterizzante però, cioè una capacità proprio di essere dentro alla realtà e di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, dallo sparare in faccia a due carabinieri inerti e inermi, perché sono bloccati con le spalle sul muro e l'ufficiale gli spara loro in volto con una sequenza diretta, uno dopo l'altro cadono, e poi immediatamente di dare una versione dei fatti ad altri testimoni già ben strutturata, già ben organizzata. La capacità di essere semi invisibili, che è un altro elemento molto interessante, di dissimularsi con notevole efficacia peraltro, perché la difficoltà poi già nell'immediato dopoguerra di identificare bene tutti i responsabili è una difficoltà che appare quasi immediatamente insormontabile. Ci sono dei profili che sembrano veramente sfuggenti, no? Di molti, c'è un particolare nella narrazione di un testimone che ricorda molto bene una mantellina di uno degli ufficiali che copriva i gradi, e lo ricorda, è un particolare, mi ha colpito molto perché questo osservatore aveva colto evidentemente un punto, un aspetto che era solo a pochi effettivamente così degno di nota, mentre invece all'interno logica della responsabilità anche del comando la dice lunga insomma sulla capacità dell'intero apparato della macchina bellica nazista di muoversi lungo un asse che era già segnato. Il fatto che ecco appunto a molti di questi non ci sia la possibilità di dare un voto, molte delle descrizioni dei principali responsabili sono abbastanza sfuggenti, c'è solo un punto dove appare una descrizione che mi interessa molto, quella dove dice un uomo alto con la faccia rotonda, una spalla ricurva, indossava occhiali, aveva un ottimo colorito, dice il testimone. Ma non c'è altro, è difficile dare un'altra fisionomia. Devo dire che la stessa cosa ecco, appare efficace, il metodo descrittivo proprio, per quanto riguarda appunto l'elemento più tecnico della lotta antipartigiana, ben suffragata da una parte documentaria, a mio parere molto importante, che qui viene ottimamente richiamata, queste Richtlinien Partisanbekämpfung del 1941, questo Waldkampf, combattimento dei boschi del 1942, e poi ulteriormente un altro documento del 1943 che descrive efficacemente lo schema che è stato seguito passo passo per le stragi, la parziale strage di Ziano e le due efficaci stragi di Stramentizio e di Molina. Metodo repressivo puntualmente seguito, probabilmente qui acuito anche da una volontà di vendetta che, e questo è un ulteriore elemento direi, smentisce completamente la vulgata della rappresaglia per i motivi di una scarsa consapevolezza dei partigiani trentini per quanto riguarda gli eventi. In realtà appare nell'epilogo del testo molto chiaro che da parte resistenziale vi fosse stata una sottovalutazione di quello che era la forza armata che avevano di fronte e una volontà forse un po' troppo ingenua di muoversi già nella logica della liberazione avvenuta o in fase di compimento. Avevano sottovalutato chi avevano di fronte, certamente non era stato una ventatezza rispetto alla popolazione civile. Certo che, ecco, e qui veramente vorrei intanto concludere questa breve introduzione, mi pare altrettanto importante poi la sottolineatura che è stata fatta di una parte molto, molto utile da ricordare, di quello che è stato l'atteggiamento da parte delle autorità italiane nell'immediato dopoguerra dal punto di vista della ricezione di quanto avvenuto. Quindi è ben vero che a distanza di più di 60 anni dagli eventi oggi diventa possibile, con la distanza storica che ci separa, paradossalmente dare meglio un volto, nomi, fisionomie a molti degli autori così sfuggenti delle stragi commesse qua dietro casa nostra, perché parliamo di strage venute in Val di Fiemme, quindi a pochi chilometri di distanza anche da Bolzano, e che hanno riguardato talvolta persone che sono state direttamente coinvolte nella storia bolzanina. Giorgio Malincola, che è stato poco fa, si chiacchierava con Lionello Bertoldi, qui ad esempio è molto importante che venga individuato nel suo ruolo anche all'interno del momento resistenziale di Stramentizio, anche di come viene descritta la sua uccisione. Viene preso praticamente di sorpresa, mentre sta semplicemente aspettando che il passaggio della truppa nazista e una raffica lo fredda immediatamente, quindi neanche la possibilità di reagire, nonostante il fatto fosse comunque una persona che aveva avuto esperienza militare, aveva avuto anche esperienza di lavoro nei servizi segreti dell'epoca, quindi non era sicuramente un povero sprovveduto, ma la velocità e soprattutto la lucidità della rappresaglia nazista, che rappresaglia probabilmente a questo punto fosse sbagliato nominarla, proprio dell'azione punitiva nazista nei confronti dei paesi trentini colpiti, ecco, lo rende completamente incapace di opporsi anche con le sue competenze militari al fuoco di una formazione militare molto, molto ben strutturata e molto meglio armata, molto meglio organizzata di qualunque tipo di resistenza civile o armata che dei non militari in quel momento potessero organizzare. L'ultimo passaggio è quello sulla memoria, ecco, che cito solo velocemente, quindi anche qui viene citato giustamente il caso viene evocato il famoso armadio di Palazzo Cesi, dell'armadio della vergogna, in cui trova posto anche la strage di Stramentizio con i suoi principali responsabili. La parte sulla memoria la trovo molto importante perché ci consegna ancora una volta, direi, un quadro di una ricerca storica in questo momento che, devo dire, saluto soprattutto positivamente il lavoro che sta facendo Trento in questa direzione, che Bolzano, ecco, sta seguendo, credo, ovviamente con modalità diverse, certamente anche con mezzi forse un po' più modesti, tra virgolette, però credo che sia una linea comune che si sta perseguendo molto efficacemente, che è quello di un uso non ingenuo delle fonti della memoria orale, un uso molto attento, molto accorto, molto efficace, e che davvero con queste modalità consente di gettare una luce sulla base soprattutto delle verifiche incrociate, poi delle fonti, documentari, scritte, fonti orali, testimonianze, ricostruzioni su una serie di eventi, e che portano poi dei dati fortemente significativi. Io credo che dopo questo testo sulla strage di Stramentizio di Molina si possa dire che le luci che dovevano essere accese si sono accese in maniera piuttosto forte, e quello che era giusto mettere a fuoco credo che che sia stato messo efficacemente a fuoco. Se devo fare un piccolo appunto di tipo strettamente editoriale al testo del questo ottimo testo dell'autore, ecco, semplicemente mi sarebbe piaciuto che magari nella parte finale, dove è stato fatto un efficacissimo lavoro anche di sintesi, eccetera, eccetera, venisse fatto un lavoro però di sintesi un po' complessiva, nel senso proprio unificante. Il lavoro rimane molto analitico, molto efficace anche per la ricerca, però una piccola parte, forse in forma di dossier, in cui si mettono insieme i volti, la ricostruzione, anche in maniera molto sintetica, i tracciati biografici che sempre nel corso del testo, nelle note, sono efficacissimamente sviluppati, nella parte finale sarebbe stato forse utile, no? Anche per un uso, ecco, io magari parlo più come insegnante anche di scuola superiore, no? Perché quello può essere molto, molto utile. E non è una, diciamo, un'osservazione puramente di carattere, diciamo, basso didattico, è un'osservazione forse legata anche al fatto che quando si mette insieme poi come punto finale di questo ottimo lavoro di ricostruzione un volto, ha una storia, ha una biografia, anche ha una fine drammatica, eccetera, si fa un lavoro storico, credo, di grande impegno e anche di grande importanza, perché si riesce a consegnare qualcosa di più di un tracciato documentario, e spesso magari a lettori come possono essere dei ragazzi giovani, eccetera, rimane molto importante vedere in faccia la vittima, così come guardare negli occhi il soldato nazista che invece è l'assassino, vedere in faccia il gregario, avere l'idea di chi sia davanti, ecco, quello forse in questo momento finale è qualcosa che può essere utile per dare un po' compimento all'intero lavoro. Io, ecco, intanto chiuderei qui e lascerei la parola a Lorenzo Guardumi e vi ringrazio per l'attenzione. Beh, che dire, è già stato detto quasi tutto, praticamente. L'ottima presentazione di Andrea Felis mi è piaciuta. E sì, ha elencato i punti salienti del saggio che ho avuto la fortuna di poter scrivere. E questa ricerca è iniziata soprattutto per merito o grazie a due strumenti essenzialmente: alla possibilità di aver recuperato materiale giudiziario relativo alle stragi e alle interviste che abbiamo condotto sul campo, io e Matteo Gentilini, che è un mio collega del museo, della Fondazione del Museo Storico del Trentino. Senza uno dei due strumenti la ricerca non si sarebbe potuta compierne, perché la memoria va bene, ma la memoria è un'arma a doppio taglio, come sappiamo benissimo, quindi deve essere sempre ancorata ad altri tipi di documentazione, come in questo caso è appunto quella giudiziaria relativa alle stragi, come comunque sono i riferimenti alla bibliografia italiana, che negli ultimi 15-20 anni ha fatto passi da gigante nel ricostruire, nel rivalutare le stragi e la memoria ad esse collegata. Noi Trentino, comunque la storiografia trentina in generale, ha sempre pensato al Trentino durante la Seconda Guerra Mondiale come a un'isola felice, fondamentalmente, e questo è sì un dato che rispetto ad altre aree del continente, d'Europa, è vero, però per altri aspetti non lo è. Voglio dire, i tedeschi in Trentino adottano una particolare politica nell'usare la violenza nei confronti di chi ha il coraggio di opporsi armi alla mano contro di loro. Si elimina praticamente il partito, o non si permette al partito fascista repubblicano di formarsi in Trentino, si fanno arrivare generi alimentari in quantità abbondanti fino a un certo periodo, fino al 1944 inoltrato, si crea il CST, quindi il corpo di sicurezza, che raduna comunque a ruolo i più giovani e si promette che non saranno inviati al fronte, si promette che non saranno usati contro i partigiani, cosa che poi peraltro non è vera perché lo saranno. Tutta una serie quindi di concessioni, chiamiamole così, all'elite dirigente, alla popolazione, alla società trentina, che hanno comunque uno scopo, e lo scopo è quello di fare del Trentino una terra tranquilla, non felice magari, ma tranquilla sì, perché la linea del Brennero è troppo importante per l'esercito tedesco e per le forze armate che combattono a sud, quindi nell'Italia centro-meridionale. E quindi l'uso della violenza, l'uso della forza che si fa nei confronti dei resistenti è molto limitato, è mirato, è chirurgico direi. Infatti in questo senso le decide del 28 giugno nel Basso Trentino, quindi a Riva del Garda, Rovereto, la cattura di Maci e il suo imprigionamento a Bolzano, che poi appunto finirà con il suo suicidio, Magazzonta, i rastrellamenti in Valcarino proprio relativi ai partigiani della Val di Fieme, sono tutte operazioni mirate, cioè tendono a colpire anche utilizzando una rete abbastanza ramificata di spie o comunque di fiancheggiatori dei tedeschi, e cercano appunto di scardinare il movimento nelle sue fasi iniziali o comunque senza per questo colpire la popolazione. Infatti il reparto che tutta contrario verrà invece con le province vicine come il Bellunese, dove la resistenza, il movimento di resistenza è molto più forte e incontra anche l'appoggio della popolazione. Abbiamo tre tipi diciamo di politiche diverse nella pianforma per quello che riguarda appunto i tedeschi: Alto Atesina, dove incontra una parte della popolazione e sono visti come liberatori; nel Bellunese invece sono visti come degli invasori, e in Trentino appunto i tedeschi adottano questa politica. Nel Bellunese appunto lo stesso reparto che sarà poi responsabile delle strade di Stramentizio, Molina e di Fieme, è lo stesso reparto che nell'estate del 44 nella zona di Caviola, Gares, nel Bellunese, compie una strage senza che ci sia stata alcuna azione partigiana. Si colpisce la popolazione perché indirettamente così si colpisce il movimento partigiano. I caduti dell'estate del 44 nel Bellunese sono tutti civili, non sono partigiani. E questa è la tecnica che viene usata in gran parte del territorio nazionale, se non di tutti i territori che l'esercito tedesco aveva conquistato. Mi riferisco soprattutto alla Jugoslavia e al fronte orientale, quindi dove c'era una comunità, dove c'era la popolazione, dove c'era un forte movimento di resistenza che si basava naturalmente per rifornirsi sulla popolazione. Detto questo, sì, non è diciamo che il mio lavoro è tentato di mettere in luce, di porre comunque in evidenza anche quello che si era tentato di, senza gli strumenti che ho avuto io, si era tentato di mettere in rilievo anche in altre opere precedenti. Riferisco alla pubblicazione della maestra Pernbrunner, alla pubblicazione del partigiano Ariele Marangoni, che cercavano però da punti di vista diversi, se non opposti, di dare la loro versione. In questo saggio appunto ho preso tutti e tre, comprendendo anche i tedeschi, tutti e tre i punti di vista e li ho confrontati, cercando di far emergere responsabilità vere o presunte di tutti e tre gli attori sul campo. Il secondo lavoro, che o comunque obiettivo che mi sono proposto, è quello di inserire gli avvenimenti della Val di Fieme nel contesto della ritirata, e quindi inserire le stragi negli ultimi giorni dell'aprile-maggio del 45. Si se la politica tedesca durante tutto il periodo dell'occupazione 43-45 era stata indirizzata a non terrorizzare sostanzialmente la popolazione civile, negli ultimi giorni del conflitto tutto questo cambia, saltano le catene di comando che avevano tenuto fino a quel momento, diciamo, bravi e buoni i reparti SS, come quello di Predazzo, che aveva la sua esperienza, aveva fatto la sua esperienza appunto su altri fronti di guerra, eccetera, ed era stato impiegato nel Bellunese. Saltano tutte queste catene di comando e inoltre il territorio è attraversato da reparti che non hanno la minima cognizione di quello che era stata fino a quel momento la politica di Franz Hofer in Trentino, e quindi reagiscono come reagiscono in altre località o come avevano reagito in altre località italiane o extranazionali, diciamo. Quindi gli ultimi giorni del conflitto si caratterizzano per la compresenza di diversi soggetti sul territorio, ci sono disertori del CST, ci sono partigiani come appunto Marincola che vengono rilasciati dal campo di concentramento di Bolzano e tentano di fare ritorno a casa. C'è questa tragica fine di questi due partigiani bolognesi che durante la guerra di liberazione vengono fatti prigionieri e deportati a Bolzano. Anche loro alla fine della guerra vengono rilasciati, a fine aprile 1945 vengono rilasciati e si dirigono verso sud, però prendono una strada, secondo loro la strada giusta doveva essere, ma invece era quella sbagliata, perché invece di dirigersi verso Verona e quindi seguire la Valle dell'Adige, preferiscono a un certo punto, arrivati nella zona di Rovereto, andare verso Brentonico, quindi verso il Monte Altissimo, e incappano proprio nello stesso reparto, nella Kampfgruppe Schindelhorst, che poi sarà responsabile delle cilie, appunto. E vengono fermati, indossano ancora i panni del campo di concentramento, hanno i simboli, il triangolo rosso sul cappotto, che li individua come politici comunisti, peraltro, quindi ancora peggio, e vengono utilizzati come manovalanza e poi vengono uccisi con un colpo alla testa senza tante questioni. Quindi questi sono i reparti che attraversano il Trentino nelle fasi finali del conflitto. Ci sono naturalmente i partigiani che cercano in maniera, sì, certo, azzardata, ma a un certo punto di vista sono anche la loro posizione, anche o la loro decisione di intervenire è anche avvalorata, perché ci sono degli esiti che si apprendono, cioè Aziano, che è la strage che precede i fatti di Stramentizio e Molina, a un certo punto quattro partigiani fanno prigionieri 200 tedeschi, cosa che fino a pochi giorni prima era impensabile, e quindi ritengono, sbagliando, però hanno anche delle prove, insomma, di un esercito che sì, è pericoloso, ma è comunque un esercito che si sta sbandando, perché ne hanno le prove tangibili. E poi ci sono i civili, a un certo punto, una volta che intervengono i partigiani, e questo emerge dalla memoria stessa sia dei partigiani che dei civili, anche i civili si uniscono a saccheggiare le truppe in ritirata. Anche i civili partecipano alla suddivisione dei beni che vengono presi, diciamo, al nemico sconfitto che si ritira. E quindi anche loro hanno, da un certo punto di vista, una certa responsabilità. Naturalmente la responsabilità finale è quella dei tedeschi, che colpiscono indiscriminatamente civili, partigiani, anzi pensano già preventivamente di colpire civili e partigiani prima che succeda qualcosa, come appunto accade in molte località del Trentino. Ci sono tedeschi che attraversano paesi o comunque centri abitati e senza che ci sia nessun episodio particolare, sparano attraverso le vie del paese su porte e finestre della borgata, perché ritengono che i centri abitati siano fondamentalmente pericolosi per il passaggio di truppe, perché ritengono che ci siano o si possano annidare partigiani o comunque civili armati, e quindi fanno fuoco preventivamente. La memoria, appunto, come dicevo prima, è la parte conclusiva una buona parte del lavoro, e cerca di rimettere le cose, diciamo, a posto, perché non dobbiamo dimenticare che il rapporto comunque tra partigiani e civili non è quello che la retorica resistenziale ha propagandato, ha pubblicizzato per molti anni dopo la seconda guerra mondiale. Certo, c'erano delle ragioni politiche che sappiamo benissimo, insomma, il fatto che i partiti di sinistra, soprattutto il PC, che era stato il partito più forte militarmente nella resistenza, doveva legittimare la sua partecipazione alla vita democratica della Repubblica Italiana. Però, appunto, il rapporto tra partigiani e popolazione civile non è così, così chiaro come si voleva intendere, perché i partigiani sono comunque sbandati, sono comunque persone che vivono sulle montagne, sono persone armate, che hanno le armi, e scendono in paese, soprattutto quando è freddo, durante l'inverno, bussano le case e pretendono di essere sfamati, pretendono un ricovero. Qui, appunto, poi dipende molto dal rapporto, dalla relazione che esiste tra partigiani e civili. Ci sono rapporti naturalmente di cordialità dovuti a amicizie che durano anche durante il conflitto, a relazioni di parentela. Ci sono invece anche persone che non ne vogliono, appunto, proprio sapere, perché il problema è la roba, cioè io non ti do la mia roba perché è mia, tu non rappresenti nessuno. Questa è il vero aspetto, secondo me, saliente. I tedeschi, per quanto malvagi, per quanto prepotenti, per quanto arroganti, eccetera, rappresentano una autorità, hanno una divisa, sono riconoscibili come autorità, appunto. E quindi devono essere rispettati. I partigiani no, perché i partigiani sono vestiti come sono vestiti, ricevono i lanci degli alleati quando li ricevono, se li ricevono, e non sempre, appunto, vengono riforniti a dovere. Le armi le devono conquistare sul campo. Insomma, tutta una questione di alcuni aspetti che emergono attraverso, appunto, l'analisi della memoria, quindi attraverso le varie anche posizioni, che poi in alcuni punti convergono, perché gli stessi partigiani di Stramentiz e Molina dicono sì, era un'azione, o anche i partigiani di Aldeno, perché anche l'Aldeno c'è un caso simile ai primi di maggio del 45, e anche i partigiani di Aldeno sì, dicono non dovevamo farlo, però in quel momento avevamo ricevuto disposizioni, eccetera, siamo intervenuti. E quindi sembrano convalidare la propria responsabilità, no? Siamo noi che abbiamo sbagliato. In realtà, appunto, una volta che i tedeschi sono scomparsi dalla scena, è un meccanismo, diciamo, anche umano, dovuto al trauma subito. Scompare il colpevole reale e affido, o comunque do la responsabilità di ciò che è successo a coloro che invece erano presenti, che ritengo da un certo punto di vista responsabili, che vedo tutti i giorni, perché poi i partigiani rimangono lì. Alcuni, tra l'altro, scusate questa divagazione, sto scrivendo la tesi di dottorato che riguarda sempre un po' il periodo del Trentino tra il 43 e il 48, però, quindi criminalità, violenza, giustizia, tra guerra e dopoguerra, e ci sono partigiani che nell'estate del 45, quindi alla fine, dopo la fine della seconda guerra mondiale, si comportano come se fossero ancora ribelli, e ciò probabilmente fa scattare nella popolazione civile, soprattutto di quelle zone colpite dalle stragi, una conferma che i partigiani siano responsabili di quello che è accaduto. In realtà era, naturalmente era dovuta una fase di transizione, no? Dalla guerra alla pace, la difficoltà di rientrare nella vita normale, perché prima si è in montagna, prima si è ribelli, si è giovani, e si ha una funzione, si pensa che il proprio contributo dato alla liberazione del paese sia un dato rilevante, poi si accorgono che in realtà la guerra finisce e sono solo disoccupati, come sono disoccupati coloro che tornano dai campi di concentramento alleati, sono disoccupati coloro che tornano dall'internamento in Germania, sono una popolazione di disoccupati fondamentalmente, non sono più partigiani, sono giovani senza lavoro e quindi non fanno altro che rivivere l'esperienza, sbagliando però in buona fede secondo me, rivivere l'esperienza che avevano compiuto durante i mesi esaltanti della guerra e della lotta di liberazione. Sì, quindi le tre memorie, perché ci sono appunto anche i tedeschi non bisogna dimenticare che naturalmente sono loro i responsabili delle stragi, e sono loro che non intendono uccidere le armi, perché l'armistizio o comunque la resa delle forze armate tedesche in Italia è resa nota il 2 maggio, e questi il 3-4 maggio si muovono tranquillamente per il territorio, quando le clausole dell'armistizio dicono no, dovete fermarvi dove siete, dovete aspettare le truppe alleate, dovete aspettare gli ufficiali alleati e consegnare le armi a loro. Invece questi che fanno? Sono a Brentonico, quindi sull'altissimo, sulla vecchia linea difensiva della prima guerra mondiale, perché lì poi secondo i piani tedeschi sarebbe dovuta passare l'estrema linea difensiva a Tenfestung, se fossero stati in grado, se avessero avuto le risorse, truppe, armi, munizioni, eccetera, per contrastare ancora gli alleati. Quindi il Trentino sarebbe stato nuovamente, dopo la prima guerra mondiale, un altro campo di battaglia nella seconda. E quindi no, non si fermano, e da Brentonico, dal Montatissimo, prendono armi e bagagli e si fanno più di 100 km, quando c'erano precise, appunto le clausole erano precise, anche i movimenti dovevano essere solo per prendere rifornimenti, per recuperare generi alimentari, eccetera, e si spostano a Predazzo. Dalle testimonianze, dalle loro stesse parole di soldati e ufficiali nazisti, io deduco che in realtà non volevano portarsi a Predazzo, dove sarebbe stata la loro base. Volevano, secondo me, e questa è la teoria che un po', appunto, porto a conclusione del libro, è che volessero portarsi invece in Austria, nell'Austria orientale, dove appunto c'erano ancora forze tedesche abbastanza numerose che contrastavano l'armata rossa che stava avanzando dall'est. Loro stessi dicono speriamo che ci sia, non mi ricordo bene la frase, ma speriamo che ci siano i camion a Predazzo, perché siamo stanchi di camminare. Cioè, se ti devi fermare a Predazzo, scusate, ma cosa te ne fai dei camion? Una volta sei arrivato a Predazzo, sei a Predazzo. Comunque, il discorso era già sbagliato all'inizio, perché appunto dovevano fermarsi dove erano, attendere gli alleati, e là, probabilmente là, il problema, le stragi non sarebbero venute, poi non è detto appunto, perché in altri ci sono altre, ho cercato di riportare all'inizio come il pericolo di incorrere in una strage ad opera di reparti tedeschi fosse veramente minimo, insomma bastava rubare il motorino di d'avviamento di una radio per essere messi al muro, quindi bastava veramente, veramente poco. Sì, ecco, questo io dico, dopo la bellissima introduzione che ha fatto Gratelis, penso di... Se avete domande, naturalmente sono a vostra disposizione. Di solito lasciamo un po' di là. Sì, no, sì, sì. Grazie, dottorando. Grazie. Non ho letto il libro, sono vergognosamente in ritardo nella lettura del libro, ma evidentemente farà parte dei miei libri che ho. Io vado a letto e ho un metro cubo di libri che prendo uno ogni sera e leggo tre pagine ogni sera, quindi ho un po' di difficoltà. Ma il libro lo leggiamo perché a noi interessa molto. E a me interessa soprattutto la diversità di atteggiamento che hanno avuto due partigiani, tutti e due reduci dal campo di concentramento di Bolzano. Uno si chiama Quintino Corradini, detto Fagioli, nome di battaglia folgorante, Fagioli, e l'altro è quel famoso Giorgio Marincola, che noi abbiamo scoperto a posteriori che era un sciomalo, un partigiano, l'unico partigiano di colore di cui abbiamo notizia, che era una missione alleata, che è stato fatto prigioniero poi liberato dagli alleati, uno che aveva della grande iniziativa, con nomi diversi, Mercuzio, Mercurio, ha fatto la sua azione, arrestato dai nazisti. Anche questo noi siamo abituati, almeno a Bolzano noi ci sforziamo di una cosa: quando parliamo di tedeschi della seconda guerra mondiale diciamo che sono i nazisti, perché abbiamo un problema di distinzione linguistica. Noi abbiamo avuto nel campo di concentramento di Bolzano centinaia di tedeschi dell'Alto Adige che sono andati a finire nel campo di concentramento, di sudtirolesi. Quindi preferiamo sempre chiamare quelli che erano le guardie all'interno del campo di concentramento o quelli che sparavano contro i partigiani, chiamarli nazisti. Ma vi parlo di due partigiani. Questo Marincola viene liberato il 30 aprile 1945 e noi lo scopriamo dai libri, morto a Strementizio, con una raffica dentro una casa. Lo stesso giorno, il 30 aprile, Quintino Corradini, che ha una gamba rotta, è arrivato il 1 gennaio del 45 in mutande, senza calze, perché anche le calze gli hanno fregato durante il viaggio, arriva al seminudo al campo di concentramento di Bolzano. Gli aggiustano la gamba in qualche maniera con due stecche e lui esce il 30 aprile 1945. E ha solo la tuta che gli hanno dato all'interno del lager e un paio di zoccoli di legno ai piedi. A piedi da Bolzano va fino all'inizio della Val di Fiemme, perché vuol prendere il trenino a Val di Fiemme per tornare a casa. Dorme il 30 aprile in una casa all'inizio della Val di Fiemme, il giorno dopo prende il trenino e arriva a casa a Molina di Fiemme. Il giorno 3 arrivano i nazisti. E quello che mi ha detto a me, quando assieme a Giorgio Mezzalino siamo andati a intervistarlo, è che lui è stato sorpreso da questa cosa, ha salvato le vacche e è andato su in alta montagna e non è più sceso da lassù. Per fortuna, e lui si è salvato. L'altro Marincola invece, che anche cercava di fuggire, cercava di raggiungere la resistenza che ancora esisteva, che avevano sentito che c'era in Val di Fiemme, perché anche i bolzanini avevano trovato un territorio dove era meno difficile opporsi ai nazisti andando in Val di Fiemme. Bolzanini di Bolzano agivano in Val di Fiemme perché avevano un territorio meno ostile rispetto a quello che avevano trovato in Alto Adige. Quindi nessuna meraviglia che anche il Marincola, che esce il 30 aprile, finisca a Strementizio. Ma quello che mi interessava notare era questa differenza di questi due partigiani, che hanno avuto la stessa fine praticamente, condotti in campo di concentramento, e che assieme si ritrovano a Strementizio e a Molino di Fiemme all'interno di questa strage compiuta dalle SS, che risalivano armate e molto, molto ben equipaggiate da Val di Fiemme, muovendosi contro tutti quelli che erano gli atti dell'armistizio, perché non dovevano muoversi armati lungo le strade, dovevano fermarsi. per questo dovevano arrendersi agli alleati, perché se si muovevano necessariamente i partigiani dovevano opporsi ai nazisti armati, perché avevano l'obbligo, l'ordine di difendere le popolazioni locali. Questa è la sostanza delle cose. Sì, sì, sì. Dopodiché tutto succede, e tutto succede in modo che quando avvengono le stragi all'interno, sia all'interno del Cadore o nel Bellunese, o qui, quelli che rimangono e che subiscono la strage vedono nella causa più vicina il fatto che un partigiano abbia sparato contro i nazisti che arrivavano. Io quando mi domandano questa cosa ricordo solo la strage di Feletto. Feletto è un paese del Piemonte. Feletto aveva, la popolazione aveva ammassato il grano per consegnarlo ai partigiani che erano in montagna, per foraggiarli. Li avevano ammassati nella canonica. Una motocarrozzetta dei nazisti che passava è stata presa di mira da due partigiani. Così era l'attività partigiana. Gli sparano contro la motocarrozzetta che passa. Il giorno dopo, un corpo di spedizione formato da una brigata fascista al comando del generale Borghese, Junio Varelio Borghese, accerchia Feletto e bruciano l'intera città, l'intero paese di Feletto, perché trovano nella canonica del prete il grano ammassato e dicono che loro, tutta la popolazione è responsabile perché è quella che mantiene i partigiani. Il meccanismo è stato questo, eh? E qui adesso sono arrivati solo i nazisti, ma a Marzabotto e giù in Liguria, in Piemonte, sono arrivati prima i fascisti, perché il lavoro sporco veniva affidato ai fascisti, che avevano il compito di terrorizzare la popolazione, perché solo terrorizzando la popolazione il movimento partigiano aveva meno sostegno all'esterno, perché per avere uno in montagna bisognava che almeno 10 sapessero questa sua, gli portassero un paio di calze, un pezzo di pane, perché sennò moriva quello che stava in montagna. E così qui i 10 che rimanevano dovevano essere sterminati, per questo attaccavano i paesi. E in Alto Adige i pochi partigiani, la poca resistenza che c'è stata, si è organizzata attorno a una cosa molto visibile. Tutta la resistenza della città di Bolzano è stata quella di far passare un messaggio di speranza per le lunghe file di deportati, di civili deportati, consegnati dai fascisti ai nazisti, che passavano dal campo di concentramento di Bolzano. Gli stessi deportati all'interno venivano fatti passare ogni giorno in lunghe file per portarli a lavorare o alla zona industriale o sotto la galleria del Virgolo, dove c'era una fabbrica di cuscinetto a sfera. E la città e quelli che abitavano nei dintorni, le case popolari, le semirurali, tutti gli abitanti di lì vedevano passare questa lunga fila di deportati che usciva ogni giorno, guardati da guardie armate. Se un giorno non c'erano le SS che li portavano, erano solo la Wehrmacht che li guardava, allora quelli, gli abitanti delle semirurali, la panettiera di via Torino mandava il bambino a raccogliere il bigliettino che lasciavano cadere, o a portargli un pezzo di pane, o a portargli un paio di mutande, o a portargli un paio di calze. Tutta la resistenza all'esterno del lager, in contatto con le donne che avevano messo in piedi il comitato di resistenza all'interno, era quello di far passare un messaggio di speranza, perché mandavano dentro i pacchi. Pensate, una sola donna di Bolzano, una che un giorno o l'altro gli faremo una strada, che si chiama Franca Turra, l'Anita di Bolzano, da sola ha mandato dentro 500 pacchi dentro nel lager. Ma ogni pacco doveva essere fatto sempre con una carta diversa, sempre con un modo di legarlo diverso, sempre con un indirizzo diverso, veniva fatto penetrare all'interno. Se gli SS all'interno non li derubavano i pacchi, perché succedeva anche questo, allora venivano recuperati a quell'indirizzo. Il comitato clandestino interno di un'altra donna che si chiama Ada Buffulini, la Maria dell'Agra, a cui abbiamo dedicato una strada a Bolzano, si incaricavano di distribuire quello che stava dentro il pacco. Ma guardate, era un pacco che penetrava quel giorno e dentro erano un migliaio di donne, di uomini, di bambini che erano affamati e laceri. Era solo un messaggio di speranza. Questa è stata la resistenza di Bolzano, perché era difficile. I pochi bolzanini che hanno voluto operare attivamente, di sentirsi utili immediatamente, sono andati in Cadore, sono andati in Trentino a combattere, perché a Bolzano non potevano nuotare, era molto difficile nuotare, e quelli che hanno operato sono stati eroi, eroi pochi e eroici. Sono il Comitato di Liberazione Nazionale, che qui hanno chiamato addirittura Comitato Nazionale di Liberazione, sbagliando naturalmente, le fasce erano scritto così, Comitato Nazionale di Liberazione, sono stati, è stato tutto catturato, è stato facile, perché li conoscevano tutti, e nel dicembre li hanno catturati tutti e sono finiti tutti nelle celle del lager. Questa era stata la resistenza qua. Quindi nessuna meraviglia che usciti dal campo di concentramento di Bolzano, il bravo Fagioli, e anche il abbronzatissimo Marincola, come direbbe qualche duro, finissero a Stremento. Posso dire? È vero. E la Anita aveva una radio clandestina anche, abitava qui in piazza Mazzini e aveva la radio clandestina e ha anche contribuito a far scappare qualche prigioniero. 62. A 60, ecco. Ogni volta, questa Anita Tura, era una computista commerciale e ha violato tutte le regole della clandestinità possibili e immaginabili, perché ha tenuto nota di tutto. Dei 500 pacchi che vi ho detto, lei ha tenuto tutto quello che stava dentro il pacco e l'indirizzo a cui l'aveva mandato. Certo, abbiamo trovato tutto sotto il suo tetto di un libro, ha scritto tutto. Ha scritto anche tutto quello che aveva fatto per d'accordo col comitato clandestino interno, per far fuggire, e i tentativi di fuga sono stati 72, 62 sono andati a buon fine. Ogni volta che riusciva a far fuggire uno, scriveva partita vinta, e avevo trovato il libro dove l'Anita ha scritto partita vinta ogni volta che è riuscita a far scappare uno. Questa è stata la resistenza all'interno della nostra realtà. Anita lavorava con Maglio Longo, mi pare, no? Era nello stesso ufficio, nella zona industriale. Sì, volevo solo aggiungere una cosa alla figura di... Sono io che ufficialmente avrei dovuto fare una domanda, ma ho blatterato un po'. No, beh, non ci vuole parlare, sono a disposizione. No, volevo solo aggiungere qualche parola sulla figura appunto di Giorgio Marincola, perché Fagioli appunto aveva gelato nell'intervista alla sua testimonianza a voi, l'ha ridata a noi, è molto, sempre molto lucido, sempre molto puntuale, ricordi. E, no, Giorgio Marincola è uscito recentemente un libro curato da due giovani studiosi romani sulla sua figura, è una figura che è molto, molto attuale, razza partigiana, e secondo me è una cosa che va benissimo, dovrebbe essere proposta nelle scuole, perché appunto la libertà non ha colore il desiderio, no? L'ambizione di una vita libera, democratica, giusta, come dovrebbe essere, appunto, non ha né razza, né religione, né maniera politica, insomma. E la sua è una figura lucida, bella, insomma, perché lui... io non ho avuto, appunto, non ho voluto neanche insistere troppo sulla sua figura, perché... Medaglia d'oro della resistenza. Sì, appunto, troppo. Poi ero in contatto con gli autori, quindi sapevo benissimo che gli stavano facendo, gli rendevano omaggio con questo volume a lui dedicato, che è sempre puntuale, dico anche quello di documentazione. E, sì, è figlio di un ufficiale italiano, di stanza in Somalia, di una somala. A un certo punto il padre abbandona la madre somala, torna in Italia, però si porta i figli, che sono murati comunque di colore, e Giorgio appunto vive questa, no, questa separazione, cioè sono italiano, sono somalo, sono bianco, sono nero. Durante la guerra partecipa attivamente alla Resistenza, e dopo la liberazione di Roma nel giugno del 44 non si ritira la vita privata, come diremo adesso, ma invece decide di continuare la lotta, quindi un'ulteriore prova di fede in qualcosa di veramente, veramente profondo, veramente importante nella vita di un essere umano, secondo me dovrebbe essere così, insomma, e partecipa alla lotta di liberazione, viene catturato, viene prigionato a Bolzano, alla fine di aprile, maggio del 45, potrebbe dire, vabbè ragazzi, è finita, mi ritiro in Svizzera, per dire, invece no, decide di andare a Val di Fiemme e purtroppo morire lì. Anche questa è una figura, appunto, lo chiamavano il sudafricano, il medico americano, il mulatto, alla fine era un ragazzo italiano che era nato da una madre di un colore diverso, ma non voleva dire nulla, insomma. Certo che ci vuole veramente tanto coraggio fare il partigiano di colore nell'Italia settentrionale tra il 44 e il 45, perché insomma era facile essere individuati. E un'altra cosa che volevo dire è che appunto nel momento in cui poi muore Giorgio, come magari vi ho detto prima, c'è questa proprio questa tendenza, forse è una parola che sminuisce la politica militare, comunque la strategia militare tedesca, c'è proprio la volontà di ingannare sempre e comunque i partigiani, perché loro si presentano con una bandiera bianca, cioè non è che si presentano armati sparando e uccidendo subito, no, si presentano con una bandiera bianca, così i partigiani si credono, pensano, ritengono che i tedeschi siano lì per arrendersi e si avvicinano con fare del tutto pacifico, insomma, come appunto era accaduto nei giorni precedenti, in cui i tedeschi si erano arresi, alcuni tedeschi, alcune centinaia di tedeschi si erano arresi. La cosa appunto che ho cercato un po' di mettere in evidenza per non rimanere sempre chiusi nel nostro Trentino, perché ultimamente corriamo il pericolo dal punto di vista storico, no? Il nostro Trentino, facciamo parte dell'Italia, facciamo parte dell'Europa, facciamo parte insomma altro, insomma, vabbè, questo discorso a parte, e no, che appunto il mostrare la bandiera bianca è uno strumento che utilizzano i tedeschi, utilizzano in altri territori, in altri contesti di guerra partigiana, quindi non erano i partigiani che ingannavano i tedeschi, erano i tedeschi che ingannavano i partigiani, quello è il problema, il punto. Sì, volevo dire appunto se avete anche domande siamo qui, e se volete sono a disposizione a prezzo di lancio e alcuni cioè il volume, quindi avrei una domanda da fare, non so se lei è informato. Sentiamo anche noi. Vuole il microfono? Sì, sì. Il microfono? Grazie. Però la si sente una gamba. Attenzione. No, avrei da fare una domanda. Forse lei che appunto ha studiato quell'epoca lì e quei fatti lì, corrisponde. Quasi subito dopo l'8 settembre del 43 si forma il Voralternant, questo Gau germanico composto di tre province, Bolzano, Trento e Belluno, e qui da noi in provincia di Trento soprattutto viene lanciata, diciamo, non so se si può usare questa parola, una canzone, l'inno trentino, che è tornato di moda. Eh? È tornato di moda. Ora quello che è strano è che l'inno trentino, le parole sono di Ernesta Battisti, Ernesta Vittatina, moglie da Ubedo, se si vuole, di Cesare Battisti. Si insiste sui tre colori della bandiera italiana e si insiste sul fatto che i trentini sono italiani a tutti gli effetti, eccetera, eccetera. Però quello che è strano è che la polizia trentina cantava questo inno ed erano quelli che avrebbero dovuto andare a combattere contro i partigiani, e in effetti in Val di Fiemme sono arrivati. La prima spedizione contro i partigiani della Val di Fiemme, dove hanno... No. Sono proprio le CST che passano. Ci sono anche quelli da un disertore, mi dati da una spia. A proposito di rapporto fra i partigiani per mangiare e la popolazione. Grazie. E Fagioli ci ha raccontato che temevano che uno di che avevano fra di loro, che si era arruolato con loro, li tradisse, che fosse una spia. Perché? Perché loro chiedevano per favore, cercavano di mandare i buoni per avere qualche cosa da mangiare, cioè ci tenevano i buoni contadini, e quindi andavano a rubare le galline. Questo era uno dei principi, che i partigiani non si permettevano anche di rubare una gallina, perché si sarebbero inimicati i piccoli contadini che stavano lì, che vivevano di quella gallina, no? E quindi temevano che fosse una spia, e avevano cercato di processarlo, ci racconta, un processo molto, molto sommario, e avevano chiesto l'autorizzazione a Trento di processarlo, ma non sono arrivati perché... Nel frattempo. C'è questo rastrellamento, e a guidare il rastrellamento c'è proprio questo che rapiva le galline. Era un traditore, una spia che li ha portati proprio contro Fintino e tutti gli altri che stavano in Val di Fiemme. Ecco, questo era il rapporto tra i contadini di cui avevo parlato prima, no? Se li guardavano bene dal compiere delle intrusioni o portare via qualche cosa, quando avevano proprio bisogno di prendere e andavano nei magazzini, anche nel Cadore, ad esempio, nel Bellunese, che andavano nei magazzini, lasciavano il buono partigiano per dopo la liberazione. Questa era la regola. E qui i buoni partigiani siano stati pagati, dopo non lo so. Ma in effetti così agivano. Lasciavano un buono di prelevamento a cui il Comitato di Liberazione Nazionale ha proprio dovuto rispondere. No, ma per dire solo la difficoltà, no, di operare nel territorio, poi nel territorio come una Val di Fiemme, che comunque è a cavallo tra territorio di lingua italiana e territorio di lingua tedesca. Adesso non ne ho le prove, però, perché ci sarebbe una ricerca da approfondire, ma insomma, il feudatario di Stramentizzo, perché era quello che aveva la segheria, aveva i frutteti, aveva i pascoli, aveva le maghe, eccetera, era questo barone Longo, che era di origine austriaca, ed era tra il 43 e il 44 messo dai tedeschi, era commissario prefettizio di Egna, se non sbaglio, di Egna Ora, insomma, comunque in valle. E quindi come fai a operare quando ti rechi in paese e magari pensi che ci sia il barone Longo che è venuto l'estate a passare le ferie, per dirla così in maniera un po' volgare, e ti vede, ti denuncia e scatta subito l'operazione di polizia tedesca. Quindi era difficile, molto molto difficile, non solo perché c'era appunto difficoltà o comunque di approvvigionamenti, perché anche i collegamenti tra CLN e formazioni partigiane, insomma, erano quelli che erano, perché il territorio, pur non avendo visto operazioni e stragi come tra il 43 e il 45, come Mazzabotte, eccetera, era comunque un territorio controllato. E appunto, se aggiungiamo a questi elementi qua, il fatto che il paese era praticamente sotto il potere del sovrano, perché decideva chi lavorava e chi no, perché se il barone Longo sa che quel paesano che lavora per lui ha dato il formaggio al partigiano che è sui montagni, magari il lavoro il prossimo anno non gli era da più, quindi anche quello era uno degli aspetti difficili, di difficoltà, insomma, legato proprio al contesto trentino, secondo me, insomma. Io vorrei, se non ci sono delle domande immediate, ecco, io vorrei chiedere una cosa invece a Lorenzo qui e anche un po' fare un'osservazione. Allora, a me sembra una cosa molto interessante che il lavoro di ricerca storica che tu hai fatto tiene conto anche di qualcosa che un tempo la ricerca storica tendeva a eliminare completamente, l'elemento della casualità, no? Cioè, solitamente nell'ambito della ricostruzione storica, qualunque ambito si applichi, se io trovo che il soggetto X ha una parentela con Y e Y a sua volta produce un certo effetto, e scopro che T tizio ha con X una relazione, immediatamente faccio un'inferenza logica. Tizio, X, Y, l'esito. Cioè costruisco una catena di tipo causale, causa-effetto, causa-effetto, causa-effetto, ho trovato la causa originaria. La cosa molto interessante è che tu ad esempio in questo testo tieni conto del fatto che una serie di sia di scelte dal punto di vista tattico, ad esempio dei resistenti, dei partigiani, possa essere stata dettata che erano certe imperizie rispetto al territorio su cui combattevano, su cui si trovavano, e di una serie anche probabilmente di disorientamenti anche, no, rispetto alla comunicazione. Lo fai su una base documentaria estremamente attendibile, cioè il fatto che per esempio, tu l'hai detto anche all'inizio, loro avevano un grosso problema anche rispetto a questi passaggi di battaglioni tedeschi lungo la Val di Fiemme, di capire bene che cosa stesse accadendo di fatto, cioè se si stava palesando una ritirata e che se poi rispondeva alle istanze fissate dall'armistizio, se l'armistizio in effetti fosse stato sottoscritto poi da questi qui, o invece che andassero a riposizionarsi lungo una linea nord del Brennero, nord orientale, dici tu, e dove possono costruire una nuova linea di resistenza, quindi qualcosa che anche i comandi peraltro alleati temevano, per cui tu dici giustamente, riporti anche qui la parte documentaria molto accurata, per cui esistono una serie di spazi statunitensi che spaventano anche questo rischio e questa possibilità. Però all'interno di quello poi c'è anche un elemento di casualità. Ora qua c'è lo scontro di Miravalle, no? Che lo stesso Quintino poi lui stesso si fa portatore di una sorta di leggenda tra virgolette, no? Di mito popolare, a un certo punto si fissa, per cui l'origine dello scontro e del disastro, di stramentizio, del massacro dei civili, fosse stato un effetto poi di un evento che invece tu, sulla base anche, mi sembra anche qui, di una ricerca estremamente accurata, mostri che è ben vero che è accaduto prima, ma è stato scoperto dopo effettivamente la strage. Quindi il rapporto qui causa-effetto mancava, ma era stato posto poi dalla vulgata popolare, che doveva darsi una spiegazione. La cosa interessante è che anche lo stesso partigiano, Quintino Corradini, che lui stesso tende come testimonianza indiretta addirittura a sottoscrivere questo tipo di ricostruzione. E questo direi che è una cosa estremamente interessante da riflettere. Te lo porrei anche come problema di carattere metodologico, perché ovviamente quando si comincia a far entrare in causa anche il caso, tra virgolette, si complica ulteriormente il lavoro dello storico, perché no, ecco. Questo è il primo elemento su cui ti chiederei di dire magari una cosa. La seconda è quella relativa invece agli sviluppi successivi, cioè come si fissa poi una memoria non condivisa di questi eventi, no? Perché chi ha avuto il lutto in casa, chi ha avuto il congiunto massacrato nel letto perché invalido addirittura, no? Con le modalità più, l'accanimento contro un povero anziano, quasi settantenne, che all'epoca insomma l'età media era molto più bassa, è trascinato con una corda di cuore al collo per 200 metri e gli sparano in testa, cioè veramente una efferratezza degli eventi che ha dell'incredibile, infatti in maniera... Ragione nostra dell'incredibile. Sì, ma meccanica, no? Progressiva, per cui papà papà si passa casa per casa si fa questa cosa qui, si scontra poi con la ricostruzione a posteriori, per cui tu, soprattutto nei fatti di Viano di Fieme, descrivi molto efficacemente le difficoltà poi della ricostruzione successiva della vita e del tessuto civile del paese. Cioè, paradosso che il nazismo, da questo punto di vista, vince nella sua operazione di frantumazione dell'unità complessiva, anche delle comunità in cui va a infierire con queste modalità così atroci, e produce effettivamente un risultato, cioè che successivamente molti addirittura degli artefici di tentativi di mediazione sono accusati di essere stati o troppo deboli, di aver fatto il doppio gioco, di aver salvato la pelle. Si produce anche una pubblicistica che usa in maniera probabilmente piuttosto distorta, anche in buona fede, il proprio esclusivo punto di vista, e che non fa un'operazione invece di confronto e di comparazione delle fonti, e che da essa stessa, no, poi un contributo a una certa deformazione poi degli eventi, fino a creare una situazione anche di avvelenamento del contesto comunitario stesso di alcuni di questi paesi, no? Maestri che se ne vanno, il prete che chiede il trasferimento perché lui stesso viene additato, eccetera, no? Ma, ecco, su questa cosa qui, per esempio, tu come l'hai letta, soprattutto anche per gli sviluppi, adesso tu dici, della ricerca che stai facendo fino al 48, per gli esiti successivi, no? Perché questa è stata anche sempre una difficoltà con cui si è scontrata in qualche modo anche la volontà che che c'è stata anche molto faticosa, di fare dell'esperienza resistenziale un'esperienza valoriale e poi collettiva per quanto riguardava l'Italia del dopoguerra, tentando anche di non enfatizzare eccessivamente i lati di contrasto ideologico interno tra diverse componenti resistenziali. Oggi, paradossalmente, la pubblicistica più aggiornata e scientificamente più valida come la tua dà ragione in un certo senso a questo, perché effettivamente si mostra come una generazione che usciva dalla guerra, che usciva dal fascismo, spessissimo non aveva una formazione ideologica particolarmente definita o delineata. Per cui era difficile dare, no, una primogenitura ai comunisti, ai socialisti, ai cattolici. Spesso si trovava un frullato di situazioni, persone che semplicemente prendevano posizione sulla base delle esperienze più singolari. Io ricordo un bel testo di alcuni anni fa di uno storico trentino sui combattenti trentini di Spagna, che poi era stato integrato successivamente, no? Che lì già i Francescotti, sull'esperienza spagnola di alcuni, anche già lì era stata determinata, che era qualcosa di apparentemente molto più ideologico, anche lì dei eventi alle volte del tutto casuali, no? Quindi e addirittura nel passaggio poi alla guerra di Spagna c'era il caso anche di un governo doppiogiochista, le cose erano un po' più complicate di quanto non appariva già di quella versione lì, no? Però qui anche in qualche modo si sottolinea questo elemento di, tra virgolette, di difficoltà poi, no? di dare un'immagine invece positiva di quello che fu un'esperienza in un certo senso unica dal punto di vista anche delle comunità, perché è vero che molte volte nella ricostruzione delle memorie il partigiano viene visto, viene letto come un estraneo già nel momento della ricostruzione dei fatti, alle volte per elementi anche giustificativi di fronte alla minaccia nazista, per esempio, non sono dei nostri, sono di un altro paese. Però si fissa anche questa immagine o non si fissa? Cioè, tu hai trovato sempre questo elemento di straniamento poi rispetto all'esperienza resistenziale da parte anche così della cultura che tu hai trovato anche all'interno di queste comunità qui? Se è rimasto qualcosa peraltro, perché bisogna anche vedere se effettivamente si sia fissato qualcosa al di là del monumento, della stele. Tu hai fatto notare come ad esempio che su quello c'è stata un'operazione un po' singolare, no? Molti dei protagonisti che non erano di lì però sono stati traslati nei paesi di origine, è rimasto un nome, no? Però non dice magari molto, sì, no? Da questo punto di vista. Beh, allora sono tante, spero di ricordare tutte le tue giuste considerazioni, no? Direi che una prima, il caso, io non ho fatto la guerra per fortuna, ma in guerra il caso penso che sia di importanza fondamentale. Sui fronti di guerra esplode una bomba, il mio compagno, a me è capitato di fare interviste anche a retici di guerra dei diversi fronti del conflitto, e per cui appunto esplode la granata d'artiglieria e il compagno a fianco è colpito, e invece io sono illeso, sono appunto, è la follia e la casualità della guerra, insomma. La stessa cosa si può dire per altre situazioni, come appunto anche nel caso di Stramentizzo Molina e Ziano di Fieme, perché anche Ziano di Fieme ha dato il suo contributo il giorno prima, 2-3 maggio, i giorni prima, con 13 caduti. Anche lì più o meno ci sono le stesse dinamiche, cioè c'è questi partigiani che intervengono per fermare queste colonne ritirate. Lì lo sapevano però, che l'armistizio era a Stramentizzo. Stramentizzo dei testimoni non è emerso chiaramente che l'armistizio era stato fermato, e quindi i tedeschi stavano per arrendere, no? Dovevano, avrebbero dovuto arrendersi. A Ziano no, perché hanno suonato le campane, il parroco è sceso, il sindaco ha consentito a mettere fuori la bandiera dal municipio. Quindi c'è appunto l'impressione che la guerra stia finendo, come quando finiscono tutte le guerre la gente esprime la sua felicità per la conclusione della tragedia, perché di questo si tratta. E appunto intervengono questi partigiani, si uniscono anche i civili, poi c'era appunto neanche rappresaglia non è il termine adeguato, perché sia nel caso di Ziano, no, è normale, perché lo dico anch'io, è fatto un'altra, non è così, hanno fatto un'operazione militare preventiva perché volevano liberare la via di transito. Tutto qui, cioè, hanno ucciso oltre 40 persone tra Zeano, Traventizio e Monia di Fiemme perché volevano liberarci il cammino, non volevano nessuno che gli si frapponesse tra loro e quello che volevano fare, andare a Predazzo, andare in Asso, non lo so, non so comunque, quelle sono le ipotesi. E quindi questo, la memoria di Zeano sia un po' più complessa di quella di Stramentizio, perché appunto entrano queste figure, questi fondamentali peraltro, questi intermediari dati appunto dal sacerdote, dal segretario comunale e da un avvocato, da Carlo Vanzetta, che lavorava a Bolzano, però in quel periodo era come molti, sfollato nelle valli laterali. Quindi questi tre personaggi si assumono la responsabilità di fare da intermediari con i tedeschi. E nella memoria successiva alcuni, forse anche in maniera abbastanza malevole, comunque non proprio giusta o riconoscente, quantomeno, nei confronti di questi tre personaggi, sì, li accusano di aver, non dico appunto, scatenato l'azione tedesca, ma di non avere operato effettivamente nell'interesse della comunità. Secondo me questa è la tesi che io porto, non è così, perché comunque sì, loro in prima persona si sono assunti la responsabilità, voglio vedere insomma in quei momenti chi l'avrebbe fatto, di affrontare, ripeto, la situazione e gli ufficiali nazisti. Un'altra cosa che volevo sottolineare è che anche in zone in cui non si sono verificati episodi traumatici di questo tipo, rimane comunque nella memoria popolare appunto il fatto che i partigiani non erano così tanto ben visti, secondo me appunto per la questione che dicevo prima, è che non sono riconoscibili, non erano riconoscibili come un'autorità conosciuta e riconoscibile. Ad esempio, negli studi che sto facendo adesso, anche appunto in zone in cui non ci sono state stragi civili, o comunque i partigiani si sono comportati bene, e c'è comunque uno strascico di odi all'interno delle comunità, odi che poi risalgono peraltro anche al fascismo, quindi a periodi notevolmente lontani, se vogliamo, nel tempo, ma secondo me fascismo e guerra sono nella memoria, e in certi episodi, soprattutto alla fine della seconda guerra mondiale, sono inestricabilmente collegati, non tanto appunto nelle stragi della Val di Fiemme, ma in generale in tutto il Trentino, anche se non si è avuto, diciamo, quello che alcuni chiamano il triangolo rosso, il triangolo della morte, per fortuna, perché non è che, però ci sono stati degli strascichi di odi, rancori, la stessa gente che ha governato per 20 anni doveva in qualche modo pagare, insomma, non ha pagato con la vita, ha pagato in un'altra maniera, però la guerra aveva, il fascismo avevano portato a quella situazione. Per quanto riguarda invece la memoria particolare dei partigiani, comunque ricordi che dei partigiani avevano i civili, comunque i testimoni che ho intervistato io, ci dipendeva molto dal grado di parentela, di amicizia che si aveva con i partigiani stessi. E c'era civile che dice noi partigiani erano dei banditi, perché venivano appunto, bussavano la notte armati, e poi alla fine della guerra hanno spogliato mio fratello che era in servizio con la flacola, avevo il soldo, adesso non mi ricordo bene, l'hanno privato di tutto, e vuol dire signore, gli è anche andata bene, perché l'hanno solo tolto la cintura e i pantaloni, però era tutto, cioè, la strage rappresenta solo l'apice, o comunque, come si può dire, viene data la responsabilità ai partigiani della strage, ma anche di tutto quello che sta prima, quindi la questione della roba, del sostegno, dei furti, diciamo così, che i partigiani compivano a danni dei civili, il rapporto appunto con elementi che invece avevano accettato di arruolarsi, di essere arruolati nelle forze tedesche. Poi appunto è anche sintomatico il ricordo, no, di questa testimone, di questa Liguina Berger, che ricorda che il padre, alla proposta dei partigiani di far andare il figlio, cioè il fratello di questa Liguina, con loro, dice di no, ne parla con la moglie, perché i partigiani poi gli avevano proposto: dai, fai venire tuo figlio con noi che abbiamo la fumata, cioè, cose anche abbastanza che rimangono alla memoria, non si sa fino a che punto. E comunque il padre parla con la moglie e decide che il figlio è meglio che accetti la cartolina che è arrivata dall'autorità, che lui riconosce, perché riconosce nell'autorità, seppure tedesca, seppure nazista, riconosce la legittimità che un partigiano non ha. Poi c'è il caso contrario di Boris Mark, che invece il padre aveva avuto, diciamo, un percorso, diciamo, antifascista, comunque non era stato sicuramente fascista durante il ventennio, anzi era migrato anche per questioni politiche, perché, come sappiamo, se non avevi la tessera molto spesso non lavoravi in Italia. Quindi era migrato in Messico, c'era fatto tutta un'esperienza appunto di emigrante, e torna appunto nel periodo del 43-44, e insieme al fratello prendono in affitto le maghe di questo barone Longo. E il rapporto invece tra padre e figlio Boris Mark, che ricorda lui, appunto tra il padre e i partigiani, è un rapporto tutto sommato felice, insomma, dove comunque sì, si dà il cibo, si fornisce il loro rifornimento, però si raccomanda anche di fare attenzione a scendere in paese la notte piuttosto che il giorno, naturalmente, insomma. Oppure appunto nelle fasi finali del conflitto di dire: ragazzi, forse è meglio se non intervenite. Ecco, spero di grazie a voi. Grazie mille.